fuori su da quel bambino, dai. Scattare, cazzo. No. Non posso, non posso. Ecco qua. 5 batte d'ingresso, 100 d'uscita. Cosa vuoi di più? Hai visto? Allora, stacco il lineale, guarda. Staccato. Ci sei? Sono quasi 8 watt. Appunto per quello, certo, si può fare. Io ho una specie di bibuccio, si chiama, che cazzo, vabbè, quello che è, però funziona. A un certo punto, va bene, sono 15 watt in ingresso, la verità. Allora, mira che io scendo, appena appena di watt. Allora. Vediamo un po', così sono 2, no, aspetta, 20, eccolo qua, eccolo qua, a posto. Adesso, allora, fate solo più che altro. Ok, a posto. Auguri Antonè, non ci eravamo sentiti. Auguroni per Natale e poi per Capodanno seguiranno altri auguri. E Daniele idem con patate. In 27 non ho sentito niente, nessuno, mi pare, nei giorni scorsi. E infatti non c'era nessuno, figurati tu. Comunque auguroni a te. Da parte mia. Aspetta che mi sto regolando il watt. Allora. Ok. Che è tutto cazzo. Ecco, forse questo, ecco. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua. Sì. Ma io sto usando un IAE di quelli vecchi, mi. Non è che sto usando un 2001, il discorso è questo. Sono quasi 80 watt, figurati tu. Ti va bene così. Ciao Marco, buonasera, ben sentito e ben ascoltato. Tutto a posto, sì? Sì, a Natale. A Natale Santo Stefano eravamo in trasferta anche noi, quindi non c'ero a casa. Qua ti volevo dire, Antonè, sì, aumenta un pochino il segnale, però ti sporca parecchio la radio, saturina, vabbè, siamo sempre lì, poi è valvolare quello, come fa a saturare il valvolare? O è pilotato troppo alto, non saprei. Daniele, cosa te ne sembra? È sparito, quindi, mi sa che è pilotato troppo alto, ma... adesso vediamo un pochettino. Allora, facciamo così. Ecco qua, la metà. Aspetta un secondo, Marco, perché mi devo regolare. Coprite il nuovo. Ok, guarda un po', ma meglio? Sono con il microfono normale, naturalmente. Sì, Antonio, va un po' va meglio. Naturalmente sai cos'è? Che già il mic ha quella timbrica, no? Ha quel tipo di timbrica, già non è un granché la modulazione per via del mic, se in più aggiunge la saturazione diventa bruttina. Così è passabile. E così quanti watt ti sta dando in uscita? 60-70, più che altro. Pilotaggio 5 watt. 5, guarda, 4 sarebbero meglio, se riesci a metterla a 4, meglio 60, guarda, meglio anche 50 watt, però che esci bene di radio, che non 60 o 70 con la radio, o peggio 80 con la radio Safa, e siamo sempre lì. Allora io sto usando il 3009, quello omologato, il KPO Palmare, quello amplificato, e poi l'aiutino da una sessantina di watt, 6-0. Già va bene, questo va. Ha voglia, c'è anche la differenza. Non è un granché, io la sento sporca. Vediamo se Daniele è rientrato, dai, così io stacco, che okay. Ero in cucina che stavo lavando i piatti e quant'altro, devo finire di mettere a posto in cucina. Daniele, ci sei? Transistorizzato non ha saturazione. Sai quando satura? Quando ci sono stazionarie. Con le stazionarie anche 1,5 tende a saturare. Cosa ti volevo chiedere, Antonio? Ma tu stai usando il K con 5 watt, ho capito bene, e poi in lineare, che senso ha? Perché non vai di watt dalla radio puliti? Ma fai la prova, perché la verità, ma comunque sia, solo 5 watt dell'apparecchio del tempo, più che altro. 5 watt di portante, 10 di picco. Magari è quello, a parte che con 5 watt il K è al limite, cioè lavora già un po' male, più i picchi di ondulazione saranno anche notevoli, magari la saturazione arriva da quello, capito? Magari te ne dà, che ne so, 10 o 20 di picco modulati, quello è che te la satura. Va bene, signori, io la benedizione ve l'ho data, gli auguri ve li ho fatti, torno in cucina a tiraccare e poi sentiamo quando capita, ok? Comunque Daniele, tutto a posto qua, per caso una curiosità, hai alzato ulteriormente l'antenna, interrogativo? Ehi, sì, qua praticamente è 8, ogni tanto oscilla, lo sai, ogni tanto o sei 8 modulato oppure man mano che scalda 8 abbondante, diciamo, dai, 8 portante fissa, modulato anche di più, quindi siamo lì. Va bene, comunque sì, esci bene, tu esci bene, non come Pomponi, vai Antone. Disgraziato. Questi picchi, infatti sono positivi o negativo. Tu sei 9,10. Ah, poi un'ultima cosa per Daniele, io non so, scusate, non voglio parlare in due. Daniele, tu sei arrivato, mi ricordo un giorno, io ero all'ascolto, però non potevo parlare, ed è arrivato anche 8,5 pieno, però quando modulavi, almeno su questo smitter mi andavi in negativo, cioè da 8,5 scendeva a 8, come se stessi, magari avevi esasperato i watt della radio, non lo so cos'era, o l'alimentazione inadeguata, eccetera, invece adesso quel problema non c'è, capito, sei pulito e con picchi positivi. Va bene, detto ciò, dai, buon proseguimento di serata, forse dopo devo anche uscire, forse, vediamo le disposizioni. Ciao a tutti e buona serata, vai Antone. Antonello è morto, vai Daniele. Yeah, va bene, quality esecutivo, ciao ciao. Me lo comandiamo. Allora, sono in pratica. Vediamo un po'. 80. Quasi 90 watt sono. Figurati, 90 watt ci vuole. Ora, 90 watt. Ci colavo di più voltaggio, aspetta. Quindi, quasi. Ora, quasi 100. Con leggeri picchi positivi anche a me. Beh, è logico, esatto. Facciamo questa prova perché facciamo subito, è uguale. Preciso verifica, quindi sono quasi 100 watt. Aspetta. Vabbè. Quasi 200 trovato di partenza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè, quello che sto saturando, ma comunque sia, sono quasi 200 watt. Quello con la valvola che c'ho, allora scendo un pochettino, scendiamo un pochettino, 150, eccolo qua, 150 sceso. Adesso va bene, giusto, sta tra 1 e 5, 150 euro di watt. E quanto arriva da te? Ah, già va bene, visto è. Sto tra 1 e 5, la verità, ma vabbè, perché c'è il palo che è rugginoso, ma più che altro, ma comunque sia, vabbè. Va bene. Voglia, sto usando una palica vecchia mia, la verità. Uno sfidi CTS usando me, lo sai? Ma è vecchio me, vecchio, proprio vecchio. E funziona bene, di solito. Meno male. Grazie a Dio. 150 euro, c'è, c'è 50 watt. Ora. Un picchio è 160. Prova un po'. Guarda, 10, 9, 15. Magari l'antenna, cosa cazzo vuoi ti dica io? Stacca con l'antenna lì e c'è la gelata, che è meglio. Vabbè, cosa vuoi ti dica io? Non so cosa dirti. Prova, io ho la... quell'antenna piccola, non c'è la mantola, quindi a un certo punto prova quella che ho io, che c'avevi anche tu in via d'Italia, e quindi a un certo punto la differenza ci sarà, no? E appunto per quello, sto pompando. Ma voglio che pilota bene. Cazzo. 150 sono. E come insegna a me. Ti rivivo e rido. E ha voglia, e arriva sì. E sta pilotando qualche volumina, ti ha rotato sì, penso di sì, come che ho fatto male. Quindi a un certo punto non è che devo usare l'amplificato. Allora vediamo qua, 105, 60. Ma allora, che scalda, sta pompata. Allora, questo è il microfono, ma adesso vediamo un pochettino il microfono amplificato, vediamo come esce, va. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Ora. Beh, come andiamo? Ma è già la sua migliore, allora. Sopra la passaggio più lunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come l'amplificazione? Va bene, sì. Penso di sì. E già va bene, anche io. Infatti sono, aspetta. Ti faccio vedere i fatti.